per l'ardore dei tuoi baci, da un brivido caldo che io solo so, gridando forte quanto tu mi piaci, e forte a me ti stringo e se ti avrò, voglio che sia per sempre, tu lo sai, lasciati andare nella danza dell'amore. Oh, amore.